Ma sono dati che ovviamente dal punto di vista di quelli che sono, diciamo, gli stand poll e anche i primi seggi sono molto molto positivi. Certo c'è questo tema che noi sapevamo dell'affluenza, è evidente che probabilmente, come sta emergendo in questi momenti, anche forse il dato scontato del risultato non ha incentivato più di tanto la partecipazione al voto. Devo anche dire che questi dati che stanno uscendo in questi minuti ci spingono anche a fare alcune considerazioni rispetto anche a come probabilmente dal centrodestra è stata condotta questa campagna elettorale. Comunque se va come si sta profilando il dato, siamo molto contenti. La considerazione che faccio è che sta vincendo chi ha dimostrato di amare di più la propria terra. Nelle zone alluvionate la partecipazione è stata più alta, Bologna piuttosto che Ravenna abbiamo avuto dei dati più alti e sopra il 50% di affluenza. Quindi non è stata l'alluvione a determinare l'astensionismo. Nelle zone invece più periferiche, dove probabilmente si sentiva anche meno, diciamo, la partecipazione a questa competizione, c'è stata una minore affluenza, quindi non è stata l'alluvione a determinare questo cambio, anzi, come esattamente durante le amministrative, l'alluvione non ha determinato, diciamo, un cambio di colore politico dei territori amministrati.